terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Inverno nel deserto. Primavera tra colline pedemontane, mandorli in fiore. Un uomo atterrato da un esuberante attacco d'epilessia nel Russian Gulch State Park. L'azzurrissimo lago del cratere, il cupo parco di Yellowstone e le sue calde sorgenti colorate, cuccioli di geysers, arcobaleni di fango ribollente, simboli della mia passione. Un branco di antilopi in una riserva, la centesima caverna, adulti $1, Lolita 50 centesimi. Un castello costruito da un marchese francese nel North Dakota, il Corn Palace nel South Dakota e le gigantesche teste dei presidenti scolpite nel granito torreggiante. Facemmo la conoscenza della bizzarra specie che popola il ciglio della strada. L'uomo autostoppista. Nome scientifico Homo pollex, con le sue varie sottospecie e sottoforme. Il modesto, lindo soldatino che aspetta tranquillo, tranquillamente consapevole del richiamo viatico del khaki. Lo scolaro, che deve andare due isolati più in là. L'assassino, che vorrebbe fare 2000 miglia. I giovani animali pallidi e ben fatti, capelli lustri e occhi sfuggenti, giacca e camicia pacchiane, che agitano il pollice teso con vigore quasi priapesco. A tentare donne sole e lugubri commessi viaggiatori dai gusti fantasiosi. «Prendiamolo!» mi supplicava spesso Ollo, strofinando le ginocchia in quel suo modo tutto particolare, mentre un pollex particolarmente disgustoso, un tizio della mia età e corporatura con la fascia clac dell'attore disoccupato, camminava all'indietro praticamente nella traiettoria della nostra macchina. Dovevo sorvegliarla bene, la mia piccola languida Lo. Forse a causa del costante esercizio amoroso e nonostante l'aspetto infantile, irradiava un singolare alone sensuale che suscitava nei meccanici, nei fattorini d'albergo, nei villeggianti, nei gonzi con la macchina di lusso, negli abbronzati babbei vicino alle piscine azzurrate, degli accessi di concupiscenza che avrebbero potuto inorgoglirmi e invece esacerbavano la mia gelosia. Quando, nel corso delle soste più lunghe, mi rilassavo dopo una mattina a letto particolarmente infuocata e con la bontà del mio cuore placato le consentivo, indulgente Humbert, di visitare lì di fronte il Roseto o la biblioteca dei ragazzi con i figli di un vicino di motel, la brutta piccola Mary e il suo fratellino di 8 anni, Lo tornava con un'ora di ritardo e Mary, a piedi nudi, si trascinava in lontananza il fratellino metamorfosizzato in 2 laidi liceali, 2 spilungoni dai capelli d'oro tutti muscoli e gonorrea. Il lettore può ben immaginare che cosa rispondessi al mio tesoro quando, con voce piuttosto incerta, devo ammetterlo, mi chiedeva se poteva andare al pattinaggio con Carla e Al. Ricordo la prima volta che, un pomeriggio di polvere e di vento, la lasciai andare in una di quelle piste. Mi disse crudelmente che se l'avessi accompagnata non si sarebbe divertita, perché era l'orario riservato ai teenager. Arrivammo a un faticoso compromesso. Io restai in macchina, in mezzo ad altre macchine vuote, tutte col naso rivolto alla pista all'aperto protetta da un tendone, dove una 50 di ragazzi, molti a coppie, pattinavano interminabilmente in tondo al suono di una musica meccanica e il vento inargentava gli alberi. Dolly aveva i blue jeans e gli stivaletti bianchi, come la maggior parte delle altre. Io continuavo a contare le rivoluzioni della folla rotante ed un tratto lei non c'era più. Quando mi passò di nuovo davanti era con 3 giovinastri che un attimo prima avevo sentito esaminare le pattinatrici dal bordo della pista. In qualunque città ci fermassimo, chiedevo, con le mie educate maniere europee, dove fossero le piscine, i musei, le scuole, quanti fossero gli iscritti alla scuola più vicina e così via. E all'ora dello scuolabus, sorridendo e contraendo appena il viso, scoprì quel tic nerveux, perché la crudele Lo fu la prima a scimmiottarlo. Parcheggiavo in un punto strategico con la mia scolara itinerante accanto a me per guardare l'uscita delle bambine, sempre una vista graziosa. Questo genere di cose cominciò presto a tediare la mia tediabilissima Lolita, la quale, mostrando un'infantile intolleranza per i capricci altrui, insultava me e il mio desiderio di farmi accarezzare, mentre le brunette con gli occhi azzurri e i calzoncini azzurri, le rosse col bolero verde, le bionde sfocate con i maschili jeans sbiaditi ci passavano accanto nel sole. A titolo di compromesso la autorizzavo, liberalmente, ovunque fosse possibile, a usare la piscina con le altre ragazzine. Lei adorava quelle acque luccicanti ed era una notevole tuffatrice. Col mio pratico accappatoio, dopo un'immersione pudibonda, io mi sistemavo nella pastosa ombra pomeridiana e lì rimanevo con un libro pretestuoso o una scatola di dolci, o con entrambi, o con nient'altro che le mie ghiandole formicolanti, e la guardavo mentre faceva le capriole con la cuffia di gomma, la liscia abbronzatura tutta imperlata di gocce, le aderenti mutandine satinate e il reggiseno increspato, felice come in una pubblicità. Tesoro pubescente, con quanto compiacimento mi meravigliavo che fosse mia, mia, mia! E riandavo alla recente estasi mattutina accompagnata dalle colombe in lutto, e pianificavo quella del tardo pomeriggio. Socchiudendo gli occhi trafitti dal sole, paragonavo Lolita alle altre ninfette che la sorte parsimoniosa radunava attorno a lei. Florilegio offerto al mio giudizio e al mio diletto. E oggi, con la mano sul cuore dolente, penso davvero che nessuna di loro l'abbia mai superata in desiderabilità. Forse due o tre al massimo, in una certa luce, con certi profumi mescolati nell'aria. Una volta fu il caso senza speranza di una pallida bambina spagnola, figlia di un nobiluomo dalla mascella quadra, e un'altra vige di vague. Dovevo stare sempre allerta, naturalmente, perché mi rendevo conto appieno, nella mia lucida gelosia, del pericolo insito in quelle corrusche piroette. Bastava che mi girassi per un istante, ed ecco, al mio ritorno la trovavo abbandonata sull'orlo di pietra della piscina, les yeux perdus, i piedi dalle lunghe dita che scalciavano nell'acqua, mentre a entrambi i lati s'acquattava un brun adolescent che, al ricordo della sua ramata bellezza e dell'argento vivo nelle pieghe infantili del suo stomaco, sarebbe stato costretto a s'étordre. Oh, Baudelaire, in sogni ricorrenti per i mesi a venire. Cercai di insegnarle a giocare a tennis per avere più passatempi in comune. Alle nostre partite, stranamente, lei preferiva, prima di arrivare in California almeno, informi approssimazioni di scambietti, più una caccia alla palla che un vero gioco, con una sua coetanea estenuata e minuta, un ange gauche di mirabile leggiadria. Da spettatore soccorrevole mi avvicinavo all'altra bambina e, inalando la sua tenue fragranza di muschio, le toccavo l'avambraccio e reggevo il suo polso ossuto, spingendole in un senso o nell'altro la coscia fresca per mostrarle la posizione del rovescio. Intanto Lo, china in avanti, lasciava spiovere i soleggiati riccioli bruni e appoggiava la racchetta come il bastone di uno zoppo, emettendo un formidabile uff di disgusto per la mia invadenza. Allora le lasciavo al loro gioco e restavo a guardare. We'll end everybody, we'll be happy. La scampammo bella parecchie volte. La scocciatura dei Niagara mi perseguitò naturalmente in tutti i nostri alberghi, ma non mi accorsi della sottigliezza d'ostia di certe pareti finché una sera, dopo un amplesso troppo rumoroso, la tosse mascolina di un vicino non riempì il sopravvenuto silenzio come fosse stata la mia. E il mattino dopo, mentre facevo colazione al bar, Lo dormiva fino a tardi e mi piaceva portarle un bricco di caffè caldo al letto. Il mio vicino della sera prima, un anziano imbecille con gli occhialini sul lungo naso virtuoso e l'etichetta di un congresso sul bavero, riuscì in qualche modo ad attaccar discorso, durante il quale volle sapere se la mia signora fosse come la sua, cioè piuttosto riluttante ad alzarsi quando non era alla fattoria. Gli risposi asciutto, scivolando giù dallo sgabello, che grazie a Dio ero vedovo. Com'era carino portarle il caffè e poi negarglielo finché non aveva compiuto il suo dovere mattutino. E che amico premuroso ero, che padre amorevole, che bravo pediatra, attento a soddisfare tutti i bisogni corporei della mia ramata brunetta. L'unica cosa che rimproveravo alla natura era di non poter rivoltare Lolita come un guanto, di non poter applicare le mie labbra voraci al suo giovane utero, al suo cuore sconosciuto, al suo fegato matreperlaceo, all'uva di mare dei polmoni, agli avvenenti reni gemelli. In certi pomeriggi particolarmente tropicali, nella appiccicosa intimità della siesta, amavo, mentre la stringevo in grembo, la fresca sensazione della poltrona di cuoio contro la mia massiccia nudità. E lei, la bambina tipo, leggeva i fumetti di un quotidiano mettendosi le dita nel naso, indifferente alla mia estasi come a un oggetto su cui si fosse seduta per sbaglio, una scarpa, una bambola, il manico di una racchetta, e che per pigrizia non avesse voglia di spostare. Seguiva con gli occhi le avventure dei suoi personaggi preferiti, tra cui c'era una ragazzina coi calzini bianchi, ben disegnata e sciatta, dagli zigomi alti e i gesti angolosi, che nemmeno io disdegnavo. Studiava i risultati fotografici degli scontri frontali sull'autostrada. Non dubitava mai della realtà di spazio, tempo e circostanza apparentemente associata alle immagini pubblicitarie di bellezze dalle cosce nude. Ed era curiosamente affascinata dalle fotografie delle spose locali, alcune in pieno apparato nuziale, col bouquet in mano e gli occhiali sul naso. Una mosca passeggiava nei pressi del suo ombelico o esplorava le sue tenere, pallide areole. Lei cercava di acchiapparla nel pugno col metodo Charlotte e poi passava alla rubrica «Esploriamo la vostra mente». Esploriamo la vostra mente. Se i bambini obbedissero a qualche divieto, i crimini sessuali diminuirebbero? Non giocate nei pressi dei gabinetti pubblici, non accettate caramelle né passaggi dagli sconosciuti. Se mai salite su un'automobile, scrivete il numero di targa. E la marca delle caramelle, suggerì. Lei continuava a leggere la guancia sfuggente contro la mia incalzante. E quella era una giornata buona, nota bene, o lettore. Se non avete una matita, ma siete già abbastanza grandi da saper leggere, noi, interloquì scherzosamente, marinai medioevali, abbiamo posto in questa bottiglia, se, ripete lei, non avete una matita, ma siete abbastanza grandi da saper leggere e scrivere, questo vuol dire, hai capito, tonto? Incidete come potete il numero sul ciglio della strada. Coi tuoi artiglietti? Lolita. Nel mio mondo, nell'ombratile e umorosa Umbertlandia. Con imprudente curiosità lo aveva esplorato con un'alzata di spalle di divertito disgusto, ed ora mi sembrava pronta a lasciarlo, mossa da qualcosa di molto simile al puro e semplice ribrezzo. Non vibrava mai al mio tocco, e un acido «Cosa cavolo stai facendo?» era l'unica ricompensa alle mie fatiche. Al reame fatato che le offrivo, la mia sciocchina preferiva i film più sdolcinati, i gelati più stucchevoli. Se penso che tra un hamburger e un hamburger lei sceglieva invariabilmente con algida precisione il primo, nulla è più atrocemente crudele di una bambina adorata. Oh, non guardarmi con quel cipiglio, lettore. Io non voglio mica farti pensare che non riuscissi a essere felice. Devi capire che il viaggiatore incantato, posseduto da una ninfetta e a lei asservito, sta, per così dire, oltre la felicità. Nulla al mondo, infatti, dà tanta beatitudine quanto a carezzare una ninfetta. E hors concours, quella beatitudine appartiene a un'altra classe, a un'altra categoria di sensi. Nonostante i nostri battibecchi, la sua villania, tutte le storie e le smorfie che faceva, e la volgarità, e il pericolo, e la spaventevole inanità di tutto quanto, io ero sprofondato nel mio paradiso d'elezione, un paradiso i cui cieli avevano il colore delle fiamme dell'inferno, ma pur sempre un paradiso. Un mezzogiorno d'estate, sul limitare del bosco, dove fiori color del paradiso, che chiamerei volentieri speronelle, si affollavano lungo un gorgogliante torrente di montagna, trovammo Lolita e io un posticino romantico e appartato, una trentina di metri sopra il passo dove avevamo lasciato la macchina. Il pendio sembrava inviolato. Un ultimo pino ansimante prendeva una meritata boccata d'aria sulla roccia che aveva raggiunto. Una marmotta ci fischiò contro e si ritirò. Sotto il plaid che avevo disteso per Lo crepitavano dolcemente i fiori secchi. Arrivò Venere e se ne andò. La rupe frastagliata che coronava la scarpata sopra di noi e sotto un intrico di cespugli sembravano offrirci protezione dal sole e dall'uomo. Ahimè, non avevo fatto i conti col fievole sentierino che serpeggiava furtivo tra i cespugli e le rocce a pochi metri da noi. Fu allora che rischiammo più di ogni altra volta di essere scoperti. E non c'è da meravigliarsi se quell'esperienza domò per sempre la mia bramosia di amori agresti. Ma ricordo che l'operazione era finita, finita del tutto, e lei piangeva tra le mie braccia. Una salutare tempesta di singhiozzi dopo uno di quegli attacchi di malumore oramai così frequenti nel corso di quell'anno altrimenti mirabile. Avevo appena ritrattato una stupida promessa che Lo mi aveva strappato in un momento di passione cieca e impaziente, e ora singhiozzava scompostamente, pizzicava la mano che la carezzava, e io ridevo felice, e l'orrore atroce, incredibile, insopportabile e sospetto eterno che ora ben conosco era solo un puntolino nero nell'azzurro della mia beatitudine. E così stavamo quando, con uno di quei soprassalti che hanno finito per cacciare il mio povero cuore dal suo alveo, incontrai i fermi occhi scuri di due bambini bellissimi e sconosciuti, Faunetto e Ninfetta, che gli identici capelli lisci e scuri e le guance esangui proclamavano fratelli, se non gemelli. Acquattati coi loro completini azzurri, fusi con i fiori di montagna, ci guardavano con gli occhi sgranati. Mm-hmm.